Deborah, metti a posto le antenne perché sembra che chiami da Marte. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala. Macina chilometri di strada, pedala. L'hai voluta tu la bicicletta, pedala. Più in fretta, pedala. Più in fretta, pedala. Insegui la tua storia. Allora, no, io sono venuta in auto questa mattina, ma devo dire che sabato scorso un giro in bicicletta l'ho fatto. Ce l'ho abbastanza nuova, quindi non dovrò fare ricorso al nuovo bonus messo in campo dal governo per rilanciare sia la mobilità su due ruote, che appunto l'acquisto anche di questi mezzi, ma probabilmente molti italiani approfitteranno di questo incentivo, che è il tema della nostra trasmissione di quest'oggi. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, oggi in conduzione solitaria, come ci capita di fare spesso ultimamente. Mi tocca Due di Denari, mi tocca anche questa sera Focus Economia, spero non ne siate particolarmente scontenti, ma insomma anche noi dobbiamo organizzarci in queste conduzioni. E allora parliamo stamattina, come vi anticipavo, del bonus per le due ruote, con tanti ospiti, ma volevo partire con una bella notizia che Marco Lombardo ha trovato, così andando a caccia come sempre della notizia un po' leggera per aprire il nostro programma. Questa è leggera ma anche un po' pesante per il cuore, sentite un po'. Una ragazza di 15 anni ha percorso 1200 km in bicicletta con il padre ferito sulla canna per trasportarlo da vicino New Delhi al loro villaggio rurale nello stato di Bihar, attraverso un'India congelata dal lockdown per il coronavirus. Un'impresa che pensate è durata 7 giorni e che è arrivata addirittura all'attenzione della Federazione Ciclistica Indiana, che ha offerto alla ragazza la possibilità di partecipare alle selezioni per la squadra nazionale femminile di ciclismo. Veramente una storia da libro cuore made in India. L'eroina si chiama Jyoti Kumari. Il padre, un lavoratore immigrato, guidatore di rickshaw a motore, era rimasto senza lavoro, senza mezzo, senza un soldo in tasca né la possibilità di continuare a pagare l'affitto. Presi dalla disperazione e dopo che il padre è rimasto anche ferito, la ragazza si è decisa, con una vecchia bicicletta di seconda mano ha iniziato la sua odissea. Per la verità, una, ci raccontano le agenzie, come se ne sono viste tante in queste settimane di emergenza in cui milioni di persone rimaste senza nulla sono rientrate ai villaggi d'origine con ogni mezzo di fortuna, ma non tutti avevano come Kumari il padre abbarbicato alla canna della bicicletta insieme ad un grosso bagaglio contenente tutti i loro averi. L'impresa di Kumari è terminata il 16 maggio dopo 7 giorni e 1200 km di strada nelle gambe. Credo che ci sia qualcosa di speciale in lei, potremmo metterla alla prova per un'eventuale carriera da ciclista professionista, ha dichiarato alla France Press il presidente della Federciclismo Indiana. Ci ha detto che voleva solo terminare gli studi, noi gli abbiamo promesso che ci saremmo presi cura della sua istruzione nelle nostre scuole una volta che il lockdown sarà terminato. Insomma, una bellissima storia con la quale volevamo aprire e che ci dà un ottimo assist anche appunto proprio per introdurvi, come ho fatto prima, il tema di questa mattina. Quindi avete già dato un'occhiata a come funzionerà il bonus italiano per l'acquisto della nuova bicicletta. La modalità non è ancora completamente operativa, bisognerà attendere anche l'avvio di una app, quindi di una tecnologia per consentire appunto di fare le domande di questo incentivo, ma insomma tanto è bastato per scatenare grande attenzione intorno a questa iniziativa. Se avete delle curiosità potete inviarcele come sempre al 349-238-6666. Riceviamo i vostri messaggi SMS, i vostri messaggi su WhatsApp, oppure ci potete chiamare direttamente, mi farà molto piacere stamattina chiacchierare con voi all'800-24-00-24. Faremo naturalmente il nostro consueto giornale radio del risparmio. Prima di tutto però partiamo con la giornata di borsa. Meteo Borsa. Una buona giornata ad Alessandro Aspesi, Country Head per l'Italia di Columbia Threadneedle Investment. Ben trovato, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, la giornata, come dicevo, è partita, anzi non lo dicevo, ve lo dico adesso, è partita molto bene per l'Europa. Abbiamo un rialzo di un punto a Parigi, Francoforte più 1,64%, più 0,8% per il FTSE MIB a Piazza Affari. Una giornata che ci raccontano gli analisti e anche le agenzie è sostenuta dalla possibilità che vengano varati nuovi piani di stimolo per l'economia. Ce n'è ancora tanto bisogno, tanto è stato fatto, ma a quanto pare questa crisi sta generando delle voragini che si farà molta fatica a colmare. Queste nuove iniziative sono arrivate questa mattina dal Giappone nelle nuove iniziative delle autorità nipponiche, peraltro una serie di dichiarazioni che hanno consentito alla borsa giapponese di chiudere con un rialzo dell'1,7%. Quindi diciamo che cominciamo da questo aspesi. L'Asia stamattina ha messo un po' da parte tutte quelle preoccupazioni legate alle proteste di Hong Kong, che invece avevano generato un po' di tensione settimana scorsa, anche in funzione del nuovo contenzioso che si starebbe riaprendo fra Stati Uniti e Cina. Qual è la situazione quest'oggi? Oggi i mercati hanno tentato di anticipare quello che poi è un'uscita dal lockdown. Quindi il Giappone ha comunicato ufficialmente di essere partiti con la fase 2, quindi con la riapertura delle attività produttive, con un grandissimo pacchetto fiscale a disposizione delle aziende. Quindi i mercati, come si sa, tendono ad anticipare quelle che poi saranno le operazioni che verranno immesse nell'economia. Anche oggi, per esempio, in Germania, nonostante tecnicamente la Germania possa entrare in recessione, visto che ancora si parla di numeri negativi del prodotto interno lordo per il trimestre e sicuramente lo saranno anche per quello successivo, l'idea che comunque il governo stia lavorando per un recovery fund a livello europeo ha fatto sì che i mercati siano estremamente positivi. Quindi dobbiamo cercare di distinguere ciò che è il mercato finanziario, che tende comunque a scontare le positività future, rispetto all'economia reale, che invece in questo momento è molto in sofferenza. Infatti devo dire che questo è stato un tema oggetto di grande riflessione da parte di voi gestori professionali, da parte del mondo finanziario, da parte della comunità finanziaria, perché effettivamente questo mercato sembra totalmente scollato rispetto al sottostante economico in questo momento, che ci racconta di una economia che è in tracollo verticale. Il calo del PIL è impressionante, per non parlare dell'aumento della disoccupazione, che negli Stati Uniti presenta oggi dei numeri davvero spaventosi. Ma il mercato guarda oltre, guarda con insistenza la ripartenza, lo stiamo dicendo già da molto tempo, e soprattutto è assolutamente convinto che governi, autorità, banche centrali continueranno ancora a fare molto per garantire stabilità al sistema. Allora, tra l'altro stamattina aspettavamo l'IFO tedesco, l'indice di fiducia tedesco è generalmente un termometro molto osservato dagli operatori finanziari e ci rappresenta una salita nell'ultima rilevazione a 79,5 punti, a molti può dire poco questo dato, ma in ogni caso c'è una ripresa anche così nella sensibilità, ecco, del mondo imprenditoriale, che evidentemente si trasmette quest'oggi anche in borsa. Infatti dicevamo, la borsa tedesca è la migliore d'Europa. Allora, volevo commentare a bocce ferme quello che è successo la settimana scorsa a Aspesi sul fronte del mercato obbligazionario, perché noi, anche un po' stressando i nostri ascoltatori, abbiamo tanto parlato del BTP Italia, di questa 16ª emissione con finalità esplicita, la raccolta destinata a fronteggiare le emergenze economiche e a tutti i nuovi bisogni che il nostro paese ha in questo momento per appunto affrontare la grave crisi economica che stiamo appunto gestendo in qualche maniera a causa del coronavirus. 22 miliardi e passa appunto raccolti e rastrellati dal tesoro, forse con un risultato è stata la migliore emissione di sempre, ne sono state fatte 16, quella di settimana scorsa compresa, e effettivamente anche il risultato di questa operazione ci ha dato oggi una fotografia diversa rispetto alla detenzione del debito pubblico in Italia. C'è anche un'interessante intervista che è stata fatta al capo economista di Unicredit, Erik Nielsen, che ha lungamente analizzato questo dato. Appunto, voi come lo commentate, Aspesi, che luce nuova si è aperta anche rispetto al risultato di settimana scorsa di questa grande operazione di fronte alla quale c'erano molte aspettative? Ma sono due i fattori che condizionano questi bellissimi risultati che abbiamo visto settimana scorsa. In primis, la ricerca di rendimento da parte degli investitori istituzionali è pressoché disperata al momento, quindi un paese come il nostro che riesce a offrire dei tassi di interesse reali superiori all'1,3% è un'attività veramente appetibile, quindi qui sta la grandissima richiesta che abbiamo visto per il BTP Italia. In più dobbiamo tenere in considerazione che il nostro debito pubblico sta passando sempre di più in mani domestiche, quindi se consideriamo ciò che la banca centrale ha acquistato attraverso Banca d'Italia, che è circa il 17% del debito pubblico, più quello che detengono materialmente banche e investitori privati italiani, arriviamo ad una quota intorno al 66%. Calcoliamo che tanto più questa quota si avvicinerà a quota 100, tanto più saremo che non è esposti, quella delle pensioni, ecco, è un'altra. Non è quella delle pensioni, no. Tanto più saremo comunque in grado di gestire il nostro debito. Faccio un esempio, il Giappone viaggia a un rapporto deficit su PIL intorno al 237%, quindi molto ben più alto rispetto al 155% che si stima debito possa arrivare PIL, sì. L'Italia. Rapporto sì. debito-PIL. Debito-PIL, scusate. Cosa succede? Che il Giappone, avendo le mani libere, perché la totalità del debito è in mani domestiche, può permettersi di spingere sulle politiche fiscali come ha fatto oggi, con un piano di sviluppo di circa 1.000 miliardi di dollari. Se anche noi fossimo in grado di aumentare questa quota nelle mani italiane, saremmo meno esposti a quella che è la variabilità dei mercati finanziari internazionali, saremmo meno esposti a manovre speculative e di conseguenza potremmo programmare degli aiuti per quanto riguarda la nostra economia con degli orizzonti temporali di medio e lungo periodo. Quindi non è un caso anche che nelle dichiarazioni di Conte di settimana scorsa si sia comunque iniziato a considerare anche una successiva emissione di buoni del tesoro proprio sì. per andare a finanziare specifiche attività. Esatto, quindi tutto il male viene per nuocere. Diciamo che il fatto di detenerlo di più in mani italiane rappresenta per noi una sorta di scudo proprio rispetto ad eventuali nuove iniziative appunto di speculazione. Sul tema della prossima emissione, per la verità lo abbiamo spiegato anche molte volte la settimana scorsa e più volte proprio con il capo del debito pubblico italiano Davide Iacovoni, ci sono le nuove linee guida del debito pubblico italiano che proprio indicano la prospettiva di nuove emissioni speciali entro l'estate. Non abbiamo ancora dettagli su quale forma queste potranno assumere, qualcuno ha anche parlato di nuovo di un coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti, quindi proprio l'intervento eventualmente di buoni postali, non lo sappiamo ancora, lo sapremo prossimamente perché i bisogni purtroppo non sono terminati, ma questo non è detto che venga proprio raccolto dal mercato in termini negativi. I temi della settimana, Aspesi, cosa dobbiamo tenere sotto osservazione? Avremo ancora una volta chiaramente lo sguardo puntato, adesso abbiamo questo appuntamento del giovedì con i sussidi settimanali di disoccupazione dagli Stati Uniti, gli interventi dei responsabili delle banche centrali ad ogni consesso pubblico, appunto stiamo seguendoli costantemente e leggendo con grande attenzione tutte le loro dichiarazioni. Altri temi che dovremmo tenere sotto osservazione in settimana? Ma la retorica trumpiana sicuramente in questo momento sta cercando anche di distogliere l'attenzione da una situazione sanitaria molto complicata negli Stati Uniti, e non è un caso che questa grande pressione che è arrivata dall'America sulle contrattazioni con la Cina possa anche distogliere gran parte dell'attenzione dai problemi domestici. Poi dobbiamo anche considerare anche qua la dialettica tra paesi europei del nord e paesi europei del sud per quanto riguarda il piano di recupero, il recovery fund, perché anche qua chi ha i conti a posto sta spingendo affinché non sia, diciamo, del denaro da non restituire, quindi un finanziamento a pioggia, ma sia un qualcosa legato effettivamente a ciò che le attività poi i singoli paesi faranno in merito a questa pandemia. Anche qua sono molte schermaglie, la cosa importante è che Francia e Germania sono allineate, ahimè noi non abbiamo ancora un peso importante su questo tavolo di discussione, però penso che anche in questo caso il compromesso sia poi la scelta migliore per l'Europa. Oggi nessuno più pensa anche all'impatto di Brexit, tuttavia è anche questo un tema che entro fine anno ritornerà sul tavolo, perché a livello di scambi commerciali l'Inghilterra è molto importante per l'Europa, e arrivare con un'Europa debole sinceramente è l'ultima cosa che le autorità vorrebbero fare. Bene, grazie. Senta, un settore interessante di investimento in questo momento, a che cosa state guardando, visto che lei ci ha come dire, improntato il ragionamento questa mattina all'insegna dell'ottimismo, guardiamo anche a un settore sul quale puntare invece che guardare con ostinazione a quelli dai quali fuggire. Ma le posso parlare di un settore che poi ci tocca direttamente, perché è un'azienda italiana nella quale siamo investiti, che è leader nell'ambito della diagnostica. Tutti noi comunque saremo sempre impegnati a identificare dei potenziali malati il prima possibile, e quindi la prevenzione è sicuramente un tema sul quale noi siamo molto molto concentrati, e ricerchiamo appunto delle aziende che siano in grado di diagnosticare e di aiutare nelle analisi il prima possibile. È ovvio poi che ci sono altri temi e settori di più ampio spettro, come quello dei pagamenti online e dei sistemi di sicurezza per quanto riguarda i pagamenti online e delle carte di credito, che comunque continueranno ad espandersi proprio sull'onda generata dal lavoro da casa, piuttosto che dai potenziali lockdown che ci saranno prossimamente. Infatti, guardi, glielo confermo, no, le racconto questo episodio. Proprio poco fa stavo parlando con una collega in radio, qui in redazione, e stavamo cercando di ricordare quale fosse l'ultima volta che abbiamo fatto in questi mesi un prelievo bancomat. Lei addirittura mi diceva: l'ho fatto a dicembre. Io credo che l'ultimo risalga a febbraio, dopodiché un po' di contante nel portafoglio, ed effettivamente sono 3 mesi che è andato in lockdown anche quella modalità di pagare col contante, volenti o nolenti. Per qualcuno è stato un obbligo, per qualcuno anche un po' una scelta, ma effettivamente ragioniamo anche su come potrà accelerare adesso il cambiamento del sistema dei pagamenti, e noi torneremo a parlarne anche a Due di Denari. L'ho interrotta, Aspesi? No, dicevo invece, in merito a settori dove siamo molto negativi, ovviamente tutti quei settori dove le aziende in questo momento non hanno possibilità di scaricare sui prezzi la propria attività, quindi il settore energetico è molto negativo, il settore dei trasporti altrettanto, il settore del turismo anche in questo momento è molto sotto pressione. Molto dipenderà da come riusciremo a gestire questa fase 2, sia noi che ovviamente l'ambito internazionale. Se verranno fatte le cose bene, anche in questo caso vedremo delle potenzialità di recupero. Grazie ad Alessandro Aspesi, Country Head per l'Italia di Columbia Threadneedle Investment. Buona giornata e buona settimana. Arrivederci, grazie. E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. Per tutti i lavoratori domestici con uno o più contratti regolari in corso al 23 febbraio, indipendentemente dal fatto che abbiano meno lavorato durante il lockdown imposto dall'emergenza Covid. Lo ricorderete, ne abbiamo parlato proprio lunedì scorso, lo dispone l'articolo 85 del decreto rilancio. Allora, da oggi i titolari dei circa 860.000 rapporti di lavoro domestico censiti dall'Istat potranno presentare la domanda presso CAF, patronati o direttamente sul sito dell'INPS tramite SPID o PIN dispositivo. A beneficiare del bonus potranno essere solo gli occupati con un monte ore in regola superiore a 10 ore settimanali e non conviventi con la famiglia. I fondi a disposizione ammontano a 460 milioni di euro, saranno assegnati fino ad esaurimento. Per tutti i dettagli questa mattina potete trovare tutte le informazioni di nuovo sulle Sole 24 ore. Vi segnalo un'altra notizia prima di iniziare il tema di oggi, perché vedo che ha già scatenato una marea di domande da parte degli ascoltatori. Ci fa molto piacere, abbiamo un sacco di ospiti questa mattina qui, potrete rivolgerle tutte. Allora, parliamo di diritto di famiglia e delle problematicità che si sono presentate in questa fase. È stata appena partita l'emergenza Covid e appena si è resa necessaria la chiusura delle attività economico-produttive, e quindi tante famiglie si sono trovate tutte chiuse in casa, scatenando, e lo abbiamo riportato appunto, anche una marea di contenziosi e conflittualità e quindi anche molte problematiche tra le coppie, e in realtà si sono verificati anche altri altri problemi, lo abbiamo raccontato, molti papà che riducendo ovviamente i redditi si sono ritrovati nell'impossibilità di pagare gli assegni di mantenimento. E allora questa mattina sul tema ritorna Giorgio Vaccaro sul Sole 24 Ore con la nostra Valentina Maglione. La crisi innescata dalle misure di contenimento sta continuando a far vacillare gli accordi economici su cui si basa l'equilibrio già spesso precario delle famiglie divise. Dai commercianti ai ristoratori, dai professionisti ai dipendenti rimasti a casa in attesa della cassa integrazione che non arriva, sono tanti i lavoratori che nelle scorse settimane hanno visto ridursi i redditi e che ora non sono in grado di pagare gli assegni a favore dell'ex o dei figli non autosufficienti, assegni stabiliti appunto al momento della separazione. È una questione molto seria, perché non pagare l'assegno mensile è un reato e quindi molto spesso queste persone vengono anche denunciate per questo motivo, e quindi si tratta del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare secondo quanto stabilisce l'articolo 570 del codice penale, per cui ci sono sul pezzo del Sole tutte le raccomandazioni. Alle persone che si trovano in questa situazione di difficoltà devono segnalarla ed eventualmente farsi carico dell'iniziativa di rimodulare questi accordi, eventualmente appunto decidendo di ridurre l'importo da erogare alla ex o ai figli. Se i soldi non si hanno e non si può pagare, non c'è niente da fare, ma attenzione a non prendere l'iniziativa di non pagare. In qualche maniera tutelatevi e comunque eventualmente cercate di trovare la soluzione per rimodulare l'importo. Il giornale Radio del Risparmio lo terminiamo qui. Prima di andare alla borsa volevo però sentire la prima ospite di stamattina. Grazie. Buongiorno e grazie di essere con noi, mi fa molto piacere perché credo che sia in tanti anni di colleganza a Radio 24 la prima volta che interagiamo insieme in un programma. Alessandra Schepisi, collega di Roma di Radio 24, ma soprattutto conduttrice della fortunata trasmissione A Ruota Libera su Radio 24 ogni domenica alle 16. Alessandra, ciao! Ciao Deborah, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Mi sembrava il minimo sindacale stamattina coinvolgerti nel nostro programma per aiutarmi a far partire la modalità di trattare questo argomento. Allora, tu ne hai parlato già in un sacco di puntate, soprattutto in quella di ieri, ospitando peraltro un ospite che sarà anche con noi di nuovo questa mattina più tardi alle 11.45, intervistando anche il ministro dell'Ambiente. Allora, quale cielo parte questa operazione del bonus per la bici, Alessandra? Guardi, devo dire che è una misura molto attesa da tutto il popolo dei ciclisti, ma anche degli aspiranti tali, perché è un bonus, guarda, molto sostanzioso, l'hai detto anche tu all'inizio, 500 euro per il 60% della spesa, e tra l'altro non si vedeva da circa 10 anni, no? Un incentivo del genere, ed è un'iniziativa che secondo me intercetta, asseconda, ma anche promuove e davvero incentiva una grandissima voglia di bici che c'è in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane dopo il lockdown. Le persone hanno, insomma, desiderio di stare all'aria aperta, sì, di muoversi in modo sostenibile, di usare la città per i piccoli spostamenti, e sappiamo che appunto molti rinunceranno agli autobus, ai mezzi pubblici per timore di essere contagiati, e l'auto privata, insomma, ha il rischio c'è il rischio, insomma, che poi le nostre città vengano invase dall'auto privata, mm-hmm. E quindi tantissimi, io ho constatato davvero un grande desiderio anche in persone che non avevano mai utilizzato la bici per gli spostamenti in città, di o riesumare il proprio mezzo in cantina, farlo, insomma, rimetterlo in sesto, oppure anche acquistare una nuova bici. Molte già l'hanno fatto a prescindere dall'incentivo, certo. Diciamo, prima che partisse tutto il meccanismo. E poi ovviamente ci sono alcune critiche, per esempio questo incentivo, poi lo direte anche dopo, sì, riguarda solo i residenti nei capoluoghi di regione delle città sopra i 50.000 abitanti, e quindi insomma molti si sono sentiti esclusi, però ricordiamo che è una misura che è nata per tentare appunto di migliorare la mobilità in ambito urbano e la qualità dell'aria delle nostre città, insomma delle grandi città, e poi la coperta è corta, sono 120 milioni, il ministro dell'Ambiente ha detto cercheremo di raggiungere qualcosa in Parlamento, soprattutto in sede di conversione del decreto rilancio, quindi probabilmente cercheremo di, insomma, di soddisfare, insomma, tutte le richieste, però il timore è anche quello di rimanere esclusi, insomma, qualcuno teme di rimanerne escluso, perché davvero è una misura che sta riscuotendo tantissimo successo, devo dire. Bene, Deborah. grazie ad Alessandra Schepisi per essere stata con noi. Continuerà sicuramente a monitorare la partenza di questa operazione, poi anche il suo funzionamento. Vedremo quante persone riusciranno a sfruttare questo bonus, a chiederlo chiaramente al rivenditore, anzi, se in una prima fase, in realtà poi adesso lo spiegheremo nelle tecnicalità, si potrà fare richiesta in via autonoma ed individuale, poi l'applicazione appunto potrà essere resa disponibile affinché possa essere utilizzata direttamente durante l'acquisto con il rivenditore, quindi verrà praticato direttamente lo sconto all'acquisto. Vi ricordo ancora Ruota Libera su Radio 24 ogni domenica alle 16. Noi adesso abbiamo la borsa e poi entriamo nel vivo con Maurizio Caprino ed un altro ospite sul bonus bici o mobilità. Due di denari, una cosa seria. Per i vostri soldi, non i nostri. Ciao, sono Barbara da Nuoro. I love my radio. Ciao, sono Anna da Cremona. I love my radio. Ciao, sono Rosaria da Napoli. I love my radio. Gli italiani amano la radio. La partecipazione del pubblico ai programmi della radio è aumentata di oltre il 27%. Il tempo speso in ascolto digitale della radio è aumentato del 61%. Ed è l'amica sempre vicina a 37 milioni di persone. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani. Anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Due di denari. Bene, adesso scalano la soglia del contante, si prepara la patrimoniale, così uno non può neanche tenersi i soldi sotto il materasso perché poi non li può spendere. Ah, dove stiamo andando? Ho letto che ci saranno due fasi, una fase in cui bisogna farsi fare la fattura e in seguito poi sul sito del ministero farsi assegnare il bonus. La seconda fase invece viene direttamente dato il bonus al momento dell'acquisto. È possibile capire se qualcuno vigilerà sui prezzi, perché nella seconda fase magari può darsi che ci siano dei rincari. Bonus bicicletta, una pagliacciata tremenda, arrivano tutti dalla Cina e giù con gli aiuti alla Cina, tutti i monopattini dalla Cina, l'80% delle biciclette dalla Cina, oh signor, siete proprio, dai, Di Maio dipendenti. Ma certo, ovvio, e infatti ho fatto la trasmissione proprio per questo, perché mi ha chiamato Di Maio e mi ha detto cortesemente: fai la trasmissione sulle biciclette made in China. Maurizio Caprini, Il Sole 24 Ore, buongiorno e bentrovato. Grazie, buongiorno. Allora, stanno fioccando le domande degli ascoltatori sull'operazione bonus bici e non solo. Effettivamente qualcuno ci dice: segnalatelo che il bonus vale anche per i monopattici elettrici ed effettivamente anche per un certo tipo di mobilità. Poi c'è la domanda sui paesi, ce lo diceva anche Alessandra prima, che si sentono un po' discriminati, e poi c'è anche chi vuole fare un po' di arbitraggio, vuole fare un po' di speculazione sul settore, quindi dice: potrei acquistare adesso una bici con lo sconto e rivenderla il giorno dopo. Chiuderei la parentesi su tutte queste questi tentativi di iniziative per approfittare di questo incentivo, Maurizio, però insomma più o meno mi sembra una buona cosa. Poi, come per tutte le cose, si può sistemare, possono essere aggiustate, può essere rimpinguato anche il plafond previsto per l'intera operazione. Allora, pregi e difetti di questa operazione, dici intanto tu come la pensi. Ma insomma, i pregi sono ovviamente che si viene incontro a una domanda di mobilità che è destinata a crescere. Teniamo conto che in questo momento non ce ne stiamo tanto accorgendo, ma con settembre, quindi con l'auspicata ripresa anche delle scuole e la contemporanea impossibilità di fruire dei mezzi pubblici a pieno regime, anzi la capacità dei mezzi pubblici fondamentalmente è stata ridotta al 30% di quella alla quale siamo abituati, ci saranno tanti di quei problemi che sarà necessario anche rivolgersi alla micromobilità, insomma, no? Perché non si potrà andare tutti in auto, poi anche qui la micromobilità sarà solo un pannicello caldo, ma intanto meglio che nulla. Quindi sicuramente l'iniziativa ci voleva, tra l'altro era inquadrata, era già prevista, era stata già prevista, sia pure con modalità un po' diverse, nell'autunno scorso, perché si trattava proprio di incentivare in ogni caso una deautomobilizzazione, passatemi il termine. Mm-hmm. Ovviamente quelli che sono stati sottolineati dai nostri ascoltatori sono dei problemi che ci sono in tutte le campagne di incentivazione, anche voglio dire, la prima rottamazione delle automobili, stiamo parlando del 1997, ha visto un aumento dei prezzi di listino perché tanto il governo ci metteva ci metteva dei soldi, quindi voglio dire, sono cose che sono inevitabili su questa terra. Il problema vero è, come anticipavo prima, che non possiamo, diciamo, è illusorio far credere che basti un bonus bici e basta dare più spazio in città alle bici per risolvere gli enormi problemi che avremo a partire dal prossimo autunno. Questo è il vero problema. E ne parleremo. Intanto vediamo un po' chi si vuole comprare questa benedetta bicicletta o monopattino o altri dispositivi, appunto, di che cosa beneficia e soprattutto come si fa a chiedere questo incentivo. Intanto c'è un ascoltatore che chiede, Maurizio, ma questo incentivo, questi 500 euro valgono a famiglia, ad individuo? Io credo che valga a bicicletta, però non so se una famiglia vuole comprarne 4, significa che magari fa un bel investimento, 4, perché una bicicletta da 500 euro non è che sia neanche una brutta bici, direi che costano anche un pochino meno e sono dei buoni mezzi, però ecco, ci sono dei limiti da questo punto di vista? No, vale che ciascun residente maggiorenne nei comuni che possono beneficiare dell'iniziativa ha diritto, per cui dipende da quanti maggiorenni ci sono in famiglia, in buona sostanza. Poi è evidente che trattandosi di mezzi che, contrariamente alle automobili e alle moto, non hanno bisogno di formalità, uno non deve intestarselo, è chiaro che si può chiedere anche al vecchio zio di metterci il proprio nome, insomma, perché tanto poi chi lo utilizza non c'è alcun tipo di controllo. Non viene fatto il controllo, esattamente. Insomma, l'importante è sostenere, da quello che capisco, questo mercato, soprattutto un modo alternativo di muoversi nelle grandi città. Allora, mi chiedono altri ascoltatori, intanto per tutte le curiosità ci sono le FAQ e quindi le domande fatte con più frequenza sul sito. Io stavo guardando, chissà su quale sito, immaginavo stamattina quello dei trasporti del Ministero dello Sviluppo Economico, no, sono sul sito del Ministero dell'Ambiente, c'è proprio tutto l'ABC di questo incentivo. Per chiederlo, Maurizio, le prime due caratteristiche, gli ascoltatori chiedono: ma è già operativo? Credo che se qualcuno già questa settimana volesse andare a comprare la bicicletta può farlo, anticipa tutto il pagamento, poi fa la richiesta dell'incentivo in un secondo momento, giusto? Esattamente, diciamo che stanno mettendo a punto una piattaforma, i ministeri coinvolti, e però nel frattempo si può acquistare, perché la norma parla di acquisti effettuati a partire dal 4 maggio 2020. Una cosa però importante è che non bisogna al momento dell'acquisto farsi rilasciare solo lo scontrino, perché ci vuole in realtà la fattura. Questo è il punto su cui bisogna stare molto attenti. Comunque, insomma, è un documento che attesti la certificazione del pagamento, per cui mi raccomando, se volete poi chiedere l'incentivo potete farlo solo a patto che abbiate avuto rilasciata regolare fattura. Si possono comprare anche le biciclette usate? Mi pare di sì, leggo dalle FAQ del Ministero. Sì, diciamo che la norma non lo escludeva, quindi già quando è uscita la norma abbiamo ritenuto che fosse possibile, adesso arriva una conferma. Bene, ci sta sotto il cappello dell'incentivo anche il monopattino, il Ministero dell'Ambiente dice sì, a patto che sia elettrico, i monopattini a spinta non sono contemplati, e quindi ecco, anche per chi chiede questa cosa abbiamo dato questa spiegazione. Abbiamo adesso il traffico, naturalmente, caro Danilo e cara regia, dopodiché andremo anche a sentire quali sono le aspettative per la categoria di questa operazione. Abbiamo, come ho già intervistato ieri a Ruota Libera, Alessandra Schepisi, torna con noi quest'oggi anche Piero Nigrelli, direttore del settore ciclo di ANCMA Confindustria, l'Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori. Due di denari. L'app sarà in grado di capire dalla mia residenza se ho diritto oppure no al bonus? Allora, adesso cercheremo di capirlo, ma in ogni caso il bonus mobilità vale per quest'anno per i maggiorenni che hanno la residenza e non il domicilio nei capoluoghi di regione, anche sotto i 50.000 abitanti, né capoluoghi di provincia, anche sotto i 50.000 abitanti, né comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Qui il riferimento è la banca dati Istat relativa al 1 gennaio 2019 e nei comuni delle 14 città metropolitane. Credo che l'applicazione sarà istruita in modo tale che non faccia fare la domanda inutilmente ad una persona che non ne ha diritto. Qualche suggerimento lo darà l'ANCMA. Piero Nigrelli, buongiorno e grazie di essere tornato con noi. Buongiorno e grazie a voi, buongiorno a tutti. Secondo lei, appunto, l'applicazione sarà un'applicazione intelligente che ci dirà se abbiamo diritto o meno una volta inseriti i dati, ecco, al bonus? Sì, perché c'è la procedura di autenticazione della pubblica amministrazione, la procedura SPID, che quindi una volta autenticata sa tutto di noi e quindi sa dove siamo residenti e quindi sa se abbiamo diritto a questo bonus. Ecco, ci fa di nuovo la carrellata Nigrelli, gentilmente, visto che io non l'ho fatta all'inizio, aspettavo proprio di sentire lei, dei mezzi che si possono acquistare con questo incentivo. Io parlo molto generalmente di biciclette, monopattini, ma magari andiamo un po' più nel gergo, perché ci sono tanti appassionati all'ascolto che, le assicuro, scaricano anche i podcast di Radio 24 e se li ascoltano durante le loro gite in bici, che adesso speriamo tutti possiamo gradualmente ritornare a fare. Benissimo, e sappiamo che l'argomento è caldissimo, sì, e molto attenzionato, quindi sì, biciclette tutte, tradizionali, sia tradizionali che biciclette a pedalata assistita, oggetti, veicoli della cosiddetta micromobilità, quindi monopattini elettrici, come è stato ricordato in prima battuta, ma anche monowheel o Segway. E poi anche servizi di sharing, quindi questo bonus si può utilizzare per acquistare servizi di sharing, abbonamento di sharing, tranne auto in sharing, ma motocicli, biciclette in sharing sono, o monopattini in sharing sono usufruibili con questo bonus. Il buono, ricordiamo, vale fino al 31 dicembre di quest'anno. Sì, quando... e dopo si trasforma in buono rottamazione, quindi quello che era all'origine il buono con il decreto clima dello scorso anno. Quindi, certo. Ecco. Quando prevedete, Nigrelli, che sarà pronta l'applicazione che potremo trovare direttamente al momento dell'acquisto dal rivenditore, dal rivenditore appunto specializzato? Nella seconda metà di luglio, più verso la fine di luglio che non verso la metà, diciamo. Ecco, però siccome, no, voglio dire, volevo rassicurare gli ascoltatori, magari qualcuno, sì, c'è un plafond destinato all'operazione e per chi teme che sia il solito click day, e cioè se uno arriva magari aspetta che il rivenditore pratichi direttamente lo sconto e vuole acquistare nella seconda parte di luglio, rischia di trovare, come dire, l'ammontare sguarnito, vuoto. Non crediamo che verrà bruciato tutto da acquisti individuali che verranno fatti in queste settimane. Non lo so, che previsioni avete, Nigrelli? Stiamo continuamente monitorando le spedizioni delle aziende, quindi il sell-in delle aziende produttrici o importatrici di biciclette, stiamo monitorando con dei sondaggi il sell-out dei negozi. Al momento qualche preoccupazione ce l'abbiamo, quindi abbiamo previsione che a fine luglio questi incentivi potrebbero essere addirittura esauriti. Questo vale è un tema interessante, infatti. Vale, allora, comunque l'inserimento della propria fattura, dei propri dati, dei propri requisiti sul portale, per cui non sottovaluterei affatto la procedura SPID, non è così immediato, occorre davvero farsi identificare dalla pubblica amministrazione, per cui farei più che pubblicità alla fattura, che ormai i negozi sanno benissimo di dover fare, li abbiamo istruiti tutti e 2623 negozi in Italia, più che altro informare il cittadino di autenticarsi con questa procedura speed, perché sarà una condizione necessaria per poter ottenere il bonus. Ecco, perché se si andrà dal rivenditore con l'idea di dire aspetto un attimo perché ritengo che la procedura è un po' più facile, piuttosto che andare a comprare adesso la bici, farmi rilasciare la fattura, poi fare da solo la richiesta appunto dell'incentivo, se qualche persona è uguale. Però anche io anche dal rivenditore devo andare con la speed. Anche, esatto, perché anche nella fase 2, quindi a portale operativo, il cittadino dovrà prima, per quello che si diceva prima autenticarsi sul portale, quindi essere, diciamo così, avere diritto dal portale stesso di questo bonus elettronico, quindi di questo codice di sconto, e poi recarsi in negozio. Quindi questa procedura va fatta in ogni caso, sia adesso che dopo. Ottimo. Maurizio Caprino, vuoi fare una domanda a Piero Nigrelli? Magari dovremmo fare con il Sole 24 Ore una bella pagina di istruzioni per chiedere l'incentivo, parallela ad una pagina appunto con la quale attivare l'identità digitale, perché se molti non hanno capito questo passaggio, credo che sarà fondamentale appunto renderlo chiaro. Maurizio? Sì, assolutamente sì, e poi vorrei sollevare un ulteriore problema, cioè onestamente potrà sapere tutto di noi lo speed, però c'è la questione che io potrei cambiare residenza, avere un cambio di residenza in corso, e tra l'altro tutta la normativa sull'emergenza coronavirus ha determinato uno slittamento delle scadenze amministrative, per cui in quei casi io potrei avere diritto per legge, però poi non me lo riconoscono perché lo speed mi riconosce residente in un altro luogo rispetto a quello attuale effettivo. Ce ne aggiungo anche un altro, Maurizio. Io abito a Milano, la residenza a Milano, magari la compro qua e poi porto questa bicicletta altrove, la faccio usare a mia zia che sta a Canicattì, non lo so, cioè adesso Quello non si può fare nulla, su quello non si può fare nulla, è quello che abbiamo detto, no? E poi un'altra cosa, già che parliamo di territorialità, attenzione, perché il bonus che è stato evocato, che parte il prossimo 2021, il prossimo anno insomma, e sostanzialmente cambia platea, perché non sono più i residenti nei comuni sopra i 50.000 abitanti, nelle città metropolitane eccetera eccetera, ma solo i residenti nei comuni che sono sotto procedura di infrazione dell'Unione Europea, quindi cambia completamente la platea. Quindi è vero che le due iniziative, questa 2020 e per la prossima 2021 con rottamazione, sono cumulabili, però è altrettanto vero che cambia la platea, per cui se abitate in un comune che non è sotto procedura di infrazione Unione Europea, quelle per l'inquinamento, sono due procedure, e sostanzialmente l'unico anno buono è il 2020, quindi attenzione a questo dettaglio. Allora intanto, come dire, ragioniamo su quello che abbiamo fino a questo momento e ammettendo di avere degli imperterriti, degli irriducibili delle due ruote che vogliono tentare di fare questo acquisto e magari sono indietro solamente con l'identità digitale, datevi da fare perché la dovete allestire. E un altro ascoltatore ulteriore ci chiede: se io abito in un comune con molto meno di 50.000 abitanti, ma per lavoro mi sposto in un comune con quel volume di abitanti, non posso usufruire del bonus? Insomma, stanno trovando, Nigrelli, i nostri ascoltatori, tutte le eccezioni possibili, ma d'altronde sì, era anche naturale. È vero. Tuttavia il Ministero dell'Ambiente ha dovuto fare delle scelte, certo, e ha ritenuto che i residenti nelle città più grandi, più grosse, anche quelle metropolitane, potessero avere maggiore opportunità di raggiungere questo obiettivo, che comunque è stato raggiunto purtroppo con questa pandemia, che è stato quello della riduzione drastica delle emissioni inquinanti. Per cui questo è una prima ragione. Dopodiché però diciamo che i comuni oggetto di incentivo danno la possibilità a circa 30 milioni di italiani di poter usufruire di questo bonus, quindi diciamo uno su due, e quindi magari, come si diceva, forse un amico, un parente, un conoscente che non ha intenzione Senta, invece ovviamente, ripeto, tra le eccezioni delle eccezioni abbiamo anche coloro che hanno comprato la bici dal 4 maggio, non sapevano che sarebbe arrivata questa possibilità e si sono fatti rilasciare uno scontrino fiscale, non la fattura. Tutta la rete vendita, grazie alle nostre aziende associate, è stata informata puntualmente e tutti i negozi sanno che, sia pure con con un piccolo fastidio, poter soddisfare questa richiesta annullando lo scontrino anche elettronico per via telematica e riemettere fattura con la data di acquisto. Quindi, benissimo, ok. Andare in negozio, si può chiedere grande flessibilità. E poi c'è anche l'acquisto online che è contemplato nell'ambito dell'intermediazione, appunto l'importante è che non andate ad avventurarvi con un rivenditore che magari fa qualche fatica a rilasciarci dei documenti per appunto poi fare la domanda. Senta, aggiungo un'altra difficoltà, che non è soltanto il rilascio di un documento fiscale come la fattura da parte di qualunque sito o piattaforma online, che appunto, come dice giustamente lei, chissà dov'è, ma c'è anche la necessità di ogni offerente, quindi di ogni offerente del bene o servizio oggetto di incentivo, di registrarsi 2 settimane prima dell'avvio del portale del Ministero dell'Ambiente proprio su questo portale, per poi dare credito e quindi ragione al documento fiscale poi di essere riconosciuto e di essere rimborsato. Quindi si può anche comprare online, si può ottenere la fattura, ma questo sito non si registrerà mai, magari per evidenti ragioni, su un sito pubblico del Ministero dell'Ambiente, quindi non darà mai diritto al rimborso di questa fattura. Grazie a Piero Nigrelli e Maurizio Caprino per essere stati con noi, vi ha tanto appassionato, ce lo aspettavamo l'argomento e sicuramente ci torneremo fra qualche settimana. Grazie a tutti, noi ci sentiamo stasera a Focus Economia. Buona giornata.